448. Spinaci per contorno. Lo spinacio è un erbaggio salubre, rinfrescante, emolliente, alquanto lassativo e di facile digestione quando è tritato. Dopo averli lessati e tritati fini con la lunetta, si possono cucinare gli spinaci in questi diversi modi. Primo. Con solo burro, sale e pepe, aggiungendo un poco di sugo di carne se lo avete, o qualche cucchiaiata di brodo, o anche di panna. Secondo, con un piccolissimo soffritto di cipolla tritata fine e tirato col burro. Terzo, con solo burro, sale e pepe come i primi, aggiungendo un pizzico di parmigiano. Quarto, con burro, un gocciolo d'olio appena e sugo di pomodoro conserva. 449. Spinaci di magro all'uso di Romagna. Lessateli con la sola acqua che grondano dall'averli tenuti in molle. Spremeteli bene e metteteli in umido con un soffritto di olio, aglio, prezzemolo, sale e pepe. Lasciandoli interi ed aggrassiandoli con una presa di zucchero e alcuni chicchi d'uva secca a cui siano stati tolti gli acini.